Doppio collegamento telefonico con Stefano Viali e Francesca Pirani, registi del documentario Beo, vincitore del Rome Independent Film Festival appena conclusosi. Stefano e Francesca, ben ritrovati. Ciao, grazie Federico, ben ritrovato anche a te. Allora, facciamo a domande alternate. Intanto raccontiamo, uno di voi due ci racconterà di cosa si parla, qual è il tema di questo lavoro. Allora, comincio io, abbiamo fatto le prove, No, comincio io perché questa è una storia sia questa interna del documentario, ma sia quella che poi ha portato alla costruzione di un progetto del genere molto particolare. Tutto il documentario è dedicato ad un signore che viene chiamato Beo e che attualmente ha 98 anni, classe 1920. La storia nasce perché c'è un collegamento quasi, insomma, di, non dico familiare, ma insomma di grande amicizia e frequentazione con Francesca Micheletti, che è la persona che ha avuto l'idea di questo progetto, perché loro andavano lì in vacanza e lì è il territorio del Monte Feltro, le colline vicino a Nova Feltre, il luogo preciso si chiama Maiolo. Andavano in vacanza e ogni tanto Francesca diceva: io vado a parlare con Beo, vado a prendere un caffè da Beo. Beo è un signore che viene da molto lontano, nasce contadino, ha fatto la guerra, si è ritrovato a 21 anni in Grecia e in Albania, è tornato, è diventato capo del sindacato, ha lottato per, è diventato segretario del Partito Comunista locale, ha fatto la resistenza, una militanza politica, soprattutto quella dopo la guerra, perché come lui dice, quando la gente è abituata alla dittatura poi non è preparata per la politica, quindi è un uomo rivoluzionario nel suo aver resistito sempre e comunque a tutti quelli, e aver lottato per costruire qualcosa di veramente sociale. Per loro il comunismo era qualcosa di più che, diciamo, la semplice ideologia, era qualcosa che gli dava il pane, che dava senso alla politica, alla conoscenza delle persone, al fatto che le persone dovessero avere, proprio perché tutti uguali, dovessero avere gli stessi diritti e quindi dovessero anche imparare a difendere questi diritti. Questo, diciamo, noi ci siamo innamorati di questo personaggio e siamo andati a fare delle conversazioni con lui dalla fine del 2014, poi di nuovo alla fine del 2015, e quindi piano piano è nato un documentario che adesso è un vero e proprio film. Allora Francesca, a questo punto ti chiedo come è strutturato questo lavoro che vi ha portato via, insomma, del tempo, tre anni quasi, delle energie, insomma, degli stati d'animo, insomma, diversi elementi. Insomma, Francesca ci ha coinvolto, poi Beo, appena l'abbiamo conosciuto, siamo tutti innamorati di lui, perché è veramente di una vitalità travolgente. Noi non volevamo assolutamente realizzare un film sulla campagna, sul mondo rurale, farne una figura di questo tipo, nemmeno iconica, perché uno pensa comunque a una persona che ha tutta la vita alle spalle. È un uomo di un'energia, di una vitalità veramente contagiose e in qualche modo è anche un po' il testimone, è l'immagine di una nuova umanità, ci viene da dire. E in qualche modo ha dato un po' come una risposta alla fine di quella che è stata una grande utopia del Novecento, che è stato anche il comunismo. È come se lui l'avesse incarnato nel suo lato migliore, perché è orientato molto proprio da una sua vitalità interna, da un suo filo molto forte, no? Per cui ha attraversato veramente gli eventi senza rimanerne forse ferito, ma mai sforzato, mai stravolto, ha tenuto questa sua grandissima identità, e questo è impressionante, perché lui ha fatto sempre le scelte giuste, orientate veramente, io penso, dalla sua intelligenza, dal suo cuore, sempre, per cui non è mai stato crudele in guerra, però ha subito capito quelli che erano anche un po' i rapporti di classe già in guerra, così come nel dopoguerra, non ha in certi momenti in cui si poteva perdere la testa, lui ha avuto 52 persecuzioni nella sua casa, cercavano di incastrarlo alla fine degli anni 50, quando ancora i partigiani avevano le armi in casa. Lui non ha fatto stupidaggini, non ha neanche ammazzato i fascisti quando si è trovato in situazioni quando non andavano uccisi, cioè non si è lasciato andare nessuna crudeltà, e ha una visione chiara anche un uomo ateo, un uomo che ha una visione concreta, tutta umana della vita, della dignità del lavoro. Ha capito subito che appunto i nemici quando andati in guerra non erano i greci, diceva sempre, lo diceva anche Togliatti, ma sono quelli che ti tolgono la metà del tuo lavoro, sono più i padroni. Quindi questo senso un po' dell'internazionalismo, quindi lui ha capito pure che il comunismo è qualcosa che alla fine ha funzionato, non c'è stato, però è come se lui la parte più ideale, quella che era proprio un sogno di uguaglianza però anche umana, ce l'avesse dentro, e quindi ci avesse un po' lasciato un po' il testimone, ecco. E noi abbiamo costruito in realtà seguendo lui, cioè, perché lui ha, anche con tutto che quando abbiamo cominciato a 95 anni eravamo molto energico, cioè andava a prendere il suo cavallo da vendere, le api, quindi gli siamo andati dietro, e ci ha un po' accolto in questa sua famiglia con Lita, la moglie che è altrettanto eccezionale, con suo fratello. Quindi all'inizio gli siamo proprio andati dietro, l'abbiamo in qualche modo costruito posteriore, stimolandolo anche, facendogli vedere, non so, a questo punto dei filmati di Mujica che lui non conosceva, proprio Mujica, il discorso, e lui era, si è veramente illuminato, perché era come se avesse veramente ha potuto ascoltare e vedere in un politico che adesso qui non si può più ritrovare. E parlava del famoso partito del Seguito, alla fine scherzando, cioè noi siamo in pochi le persone con cui costruire una sinistra, bisogna andarsene a cercare con un segugio, per andarsi a trovare delle persone che abbiano ancora dentro questa compattezza, questa pulizia. Allora, no, in chiusura volevo sapere, dopo questa esperienza dell'Independent Film Festival, che percorso avrà il vostro lavoro, e poi se ci sono dei riferimenti web per saperne di più. Allora, siamo obbligati a distribuirlo per tante ragioni, non solo, diciamo, quelle così normali, tradizionali. Intanto ci tengo a dire che Beo ha visto il film e ha detto: sono molto contento, e questo è per noi stata una grossa importanza, perché insomma un 98enne che viene dalla Mezzadria, che non ha neanche studiato e che si ritrova protagonista in sala nella casa del cinema a Rome Independent Film Festival. Cominciamo a distribuirlo nei festival internazionali, faremo anche delle proiezioni, ci sembra giusto, nelle scuole, perché è un testimone che racconta il Novecento in questo modo, ci consente anche di rilanciare il rapporto tra la nostra generazione di cinquantenni e la loro. Insomma, adesso sta a noi il testimone, non è che è finito tutto, bisogna ricostruire, anzi bisogna resistere forse anche più di prima in un certo modo, e ricreare anche certi valori della sinistra, che è un argomento molto, molto attuale. Quindi lo distribuiremo, stiamo parlando con alcune società di distribuzione per vedere se sarà il caso di portarlo in sala e cercare di farlo vedere il più possibile, perché quello che è successo alla prima proiezione è stato che ha toccato un po' tutti, sia quelli che lo conoscevano che quelli che non lo conoscevano, e la gente non ha detto soltanto mi è piaciuto, ha detto: ah, sono stato bene mentre vedevo il film. Allora, quando c'hai a che fare con questo tipo di reazioni, di emozioni e di reazioni, sei proprio obbligato. Questo naturalmente è dovuto al fatto che tutte le collaborazioni sono state delle grandi adesioni di grossi professionisti, dalla fotografia a Deborah Trizzi, Valentina Summa, al montaggio Irene Vecchio, ma soprattutto a Pier Nicola Di Muro, che ha scritto e composto una colonna sonora originale che sostiene il film in una maniera assolutamente egregia. Non ultimo, un regalo meraviglioso che Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura ci hanno fatto, regalandoci due loro improvvisazioni che non esistono sui dischi, ma che sono state fatte e usate per Beo. Quindi possiamo dormire sonni tranquilli. Bene, bene. Allora, io vi ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci alla prossima. Grazie molto di questa ospitalità e auguri per la trasmissione, che è molto molto interessante. Grazie, ciao, grazie. Un abbraccio, grazie. Un abbraccio a voi, ciao ciao. Stefano Viali e Francesca Pirani, registi del documentario Beo, vincitore del Rome Independent Film Festival 2017.